Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Eluana Englaro, tutti a pontificare, tutti a spappagallare dai giornali, dalle radio, dalle TV, su cosa sarebbe stato giusto fare e su cosa invece è sbagliato. Su cosa è o non è l'accanimento terapeutico. Ma dov'è finito il buon senso comune? Come si può anche lontanamente pensare che sia possibile produrre una legge capace di stabilire il giusto in tutti i casi analoghi a questo? Speculazioni giornalistiche per correre dietro all'audience, alla tiratura. A questo stiamo assistendo. Avete presente quei giornalisti che si avvicinano al genitore di un figlio trucidato da qualche criminale e chiedono «Lei perdonerà?» Siamo sullo stesso piano. E le gerarchie cattoliche? Non hanno già spiegato a sufficienza il loro punto di vista? I cattolici osservanti ne terranno certamente conto. Anche Adriano Sofrice ha voluto regalare in proposito la sua pillola di saggezza, ricordando a chi di dovere l'amore per il prossimo e il perdono di Dio. Peccato che qualche anno fa, durante la campagna di lotta continua contro Calabresi, che è sfociata nell'episodio che tutti conoscono, non aveva esattamente le stesse idee. È così difficile concedere alla gente di stabilire a priori quale dovrà essere il proprio destino in casi analoghi a quelli della Englaro? E stabilito questo, è così difficile tenere lontani gli avvoltoi dei media da questi strazianti drammi familiari e lasciare che ognuno si comporti secondo la propria coscienza? Non mi illudo. Alla prossima occasione ci sarà lo stesso gracidare nello stagno. Ci sarà lo stesso giornalista con il microfono in mano a chiedere «Lei perdonerà?». Spero che ai morti non venga il voltastomaco. Almeno Indro Montanelli potrà continuare a riposare in pace. Carlo. Mi stupisce non sentire mai citare, riguardo il caso di Eluana, quel che causa una deprivazione di sensorialità e funzioni, di anni in relazione alla coscienza di sé e alla struttura nervosa, e intendo questo dal punto di vista scientifico. Perché gli italiani guardano con sospetto l'approccio scientifico? E perché si cerca di calcare sull'emotività, mostrando solo le foto solari della ragazza? In quel corpo, quell'insieme di tessuti, ormai non c'è più nient'altro, e con scientifica ed estrema probabilità. E tacciamo che una simile volontà fu espressa dalla stessa persona. Anto Pordenone. Ho sentito dire che siamo in uno stato di diritto, ma a quale giudice o magistrato o chi per esso deve rivolgersi un papà che non riesce a dar da mangiare ai suoi figli? Non credete sia un diritto reale quello di mangiare e un diritto puramente ideologico quello di far morire? E sempre sulla stessa lunghezza d'onda, perché delle persone che vogliono protestare dovrebbero viaggiare con prezzo politico, mentre le famiglie che vogliono curare i propri figli devono pagare il prezzo pieno del biglietto per raggiungere l'ospedale? Daniele. Pensate che se la mamma di Eluana fosse stata in vita, avrebbe permesso l'omicidio della figlia? Maurizio, Milano. Egregio dottor Fabi, l'attuale crisi economica, non solo finanziaria, ma anche di mercato, richiede un particolare ripensamento da parte delle aziende. Dal punto di vista del marketing, poiché non è pensabile solo lanciarsi su iniziative low cost, si possono rivedere le strategie di mercato, intervenendo sui cicli di vita dei prodotti e dei servizi. In altre parole, non bisogna ridurre i contenuti di innovazione e di valore, ma agire su un graduale allungamento della vita commerciale di quanto si vende. Inoltre anche l'offerta di packaging andrà rivista. In tal modo si potranno ottenere vari benefici. Aumenterà la fidelizzazione dei clienti, si potranno realizzare ottimizzazioni da programmazioni più attente e gli utili potranno, nel medio termine, aumentare. Tutto va ripensato a partire dalla progettazione e via via lungo la filiera del controllo della qualità, che si potrà avvicinare gradualmente a quella percepita dal cliente. Inoltre tutto ciò contribuirà a far maturare le esigenze del cliente, preparandolo a spendere meglio. Si ritornerà a dare credibilità ai budget, da quelli delle famiglie a quelli delle imprese. Mi rendo conto che questo pensierino sia pieno di speranza e di positività, ma mi auguro che molte aziende sappiano indirizzarsi in questa direzione di ricostruzione. Spesso i momenti difficili, se affrontati con una mentalità positiva, sia a livello personale che di società, risultano essere momenti di rilancio. Quanti sono però gli imprenditori e i manager pronti? Troppi hanno affrontato il lavoro con una mentalità di tutto e subito, senza aver mai eseguito il programma «Semino oggi per raccogliere domani». Ad ogni modo, l'atteggiamento positivo e costruttivo è l'unica via oggi percorribile. Cordialmente, Mario. Egregio direttore, sento lamentele per gli interessi dei mutui. Non sono d'accordo nel dire che gli interessi sono elevatissimi. Nel 1996 ho aperto anch'io un mutuo e gli interessi erano superiori al 10%. Il problema non è sugli interessi dei mutui troppo elevati. Chiedo a coloro che hanno un mutuo che si mettano nei panni di chi ha un piccolo risparmio e non riceve niente. Ma per parlare del costo del mutuo si deve pensare che si sta acquistando una casa, la quale aumenta ogni anno di valore, perlomeno per il valore dell'inflazione. Ma generalmente anche molto di più. Chi ha comperato casa 10 anni fa ad un valore di 100 milioni di lire, oggi ha una casa che vale 200-250 mila euro. Invito tutta l'informazione a esprimere fiducia per il futuro e non terrorismo per sfiduciare. Stefano. Mi viene un'idea. Perché non si fa pagare il debito di 300 milioni di Alitalia, che lo Stato deve restituire ai cittadini, quindi a se stesso, facendo un sonoro taglio programmato di 5 anni alle istituzioni Camera e Senato e ai deputati? Una sorta di mutuo, come nelle famiglie quando devono comprare l'auto, la casa e stringono la cinghia. Del resto il problema lo hanno creato loro. Sarebbe un modo per dire ai politici: guadagni tanto? Bene, allora chi sbaglia paga. Metterei ai politici una sorta di cintura di castità, in modo che si evitino spese folli e inutili. E poi, che se la comprino un'agendina. Una buona costa 5 euro, con la copertina colorata. Ivan. Egregio direttore, ho sentito polemiche e denigrazioni su Brunetta. A me pare che stia eseguendo cose corrette, cose che si sentono dire dal popolo ogni volta che si trova in un ufficio pubblico, ogni volta che subisce uno sciopero pubblico, ogni volta che legge un giornale o guarda un telegiornale. Ora vorrei fare io una polemica sugli ultimi due esempi di governo, 2001-2006 e 2006-2008. Il primo ha preso in mano un mercato in declino e l'ha consegnato in piena crescita. Ha dato notizie positive al cittadino, tra cui la diminuzione delle tasse che, anche se piccola, c'è stata. Il secondo apre denunciando un disastro economico, come se questo non fosse palese, dal 1980, e aumenta le tasse per tutti, dai pensionati INPS ai miliardari. Poi si smentisce, perché le entrate erano più alte di quanto inizialmente previsto e comunque utilizza tutto, giustificando la sparizione del tesoretto con l'aumento dei costi pubblici. Ritira un'economia in crescita e la consegna in declino o piena crisi. Basta guardare i grafici della borsa. Ora, il dottor Bersani, responsabile di quanto sopra, dà le sue soluzioni, che però a suo tempo non mise in pratica. Perché allora si spara a zero contro Brunetta e Tremonti e non si è mai parlato di Bersani? Possibile che solo l'attuale governo sia il male d'Italia? Sia l'insieme degli uomini cattivi? E chi lo sta dicendo? Chi è? Sono forse delle persone neutre e morali, rivolte al benessere di tutti? Sono forse delle comunità religiose che hanno a cuore il bene dell'umanità? Lettera firmata. Non si parla più di diritto allo studio, ma diritto al treno gratis o a prezzo politico, magari in Eurostar. Altrimenti si blocca la stazione. Tanto poi qualcuno che corre a giustificarli lo si trova sempre. Altro che Sud America. Questo è un paese da operetta. Susi, Livorno. Scrivo a proposito dell'avvenuta elezione del presidente della Commissione di Vigilanza RAI, Riccardo Villari. Ho cercato di capire questo stato di fibrillazione nel PD per questo gravissimo fatto, ma sinceramente non riesco a capire. Ora ho letto che si dimetterà. Ma che paese è questo? Che razza di politici abbiamo? La gente come me può capire un comportamento di questo tipo, considerando che l'eletto è dell'opposizione e che sono mesi che c'è questo vuoto istituzionale. Riccardo, Genova. Fino a qualche mese fa, con qualche eccezione, vedi Tremonti, alcuni politici come Bush, Berlusconi, eccetera, e famosi economisti dicevano che la crisi economica era solo finanziaria. I fondamentali però sono sani. Ora pare che anche i fondamentali se la passino piuttosto male. Ma si può ancora credere a questa gente? Piero Ostellino ha affermato che il lavoro non è un diritto, ma una merce come qualsiasi altra. Se è così, perché criticare i piloti all'Italia se riescono a vendere la loro merce a condizioni particolarmente vantaggiose per loro? È il liberismo, bellezza. Il governo americano, quello ancora in carica, dovrà intervenire, non è ancora chiaro in che modo, per salvare banche, aziende e quant'altro si trovi attualmente in difficoltà. Io trovo alquanto paradossale e anche un tantino ridicolo che ciò sia attuato da un governo ultraliberista. Aldo. Sono laureata in ingegneria elettronica, classe 2001. Una volta i corsi di laurea duravano in teoria 5 anni. In pratica, mediamente, ci si laureava dopo 7-8 anni. Mi sono quindi ritrovata a cercare un lavoro a 26-27 anni. Inoltre, posso confermare che una volta entrata in una medio-piccola realtà aziendale, mi sono trovata assolutamente impreparata a livello di contenuti e ho percepito che l'attesa del datore di lavoro era ben diversa da quello che in quel momento e con la mia preparazione potevo offrirgli. L'azienda, però, non mi ha mai offerto una formazione e da quel dì continuo a lavorare contando solamente sulla mia iniziativa personale e sulla mia capacità di costruirmi una professionalità. Quello che mi chiedo è se sia giusto attendersi questo tipo di preparazione dall'università, il cui scopo è sempre stato quello di generare una forma mentis e non di asservire alle specifiche esigenze di mercato. Oggi esistono tanti master, comunque sempre a carico del privato, che offrono la possibilità di una qualche specializzazione, ma con un inevitabile ulteriore allungamento dei tempi di ingresso nel mondo del lavoro reale. Lo sforzo di specializzazione, secondo me, dovrebbe essere un interesse specifico delle aziende. Dato che in Italia ci sono prevalentemente imprese medio-piccole che non possono o vogliono permettersi di specializzare dei neolaureati, forse lo sforzo della riforma dovrebbe andare in questa direzione, incentivando opportunamente le aziende ad investire in tal senso. Silvia. Cara Silvia, mi permetta di essere solo parzialmente d'accordo. Lei chiede che le aziende investano dei soldi per formare i giovani secondo le loro esigenze. In qualche caso, soprattutto per le grandi imprese, i corsi di formazione per i neoassunti sono già una realtà. Ma si tratta di grandi imprese, mentre il tessuto produttivo italiano è fondato, come lei giustamente osserva, sulle medie e soprattutto sulle piccole imprese. Non possiamo certo chiedere a una piccola azienda di pochi dipendenti di sostituirsi all'università. Sono invece proprio le scuole e l'università che dovrebbero rispondere all'esigenza della società, non offrire una preparazione solo teorica o dottrinale, ma preparare tutte le conoscenze di base per esercitare un lavoro, un impiego, una professione. Ognuno deve fare il suo dovere, quello della scuola è quello di introdurre i giovani alla complessità del mondo. Sono le università a dover essere aiutate, soprattutto quelle migliori, così come vanno aiutati gli studenti, con adeguate borse di studio per i capaci e i meritevoli, a poter scegliere le università migliori. Queste erano alcune lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.